questa è stata la prima parola di un infant terrible. Radio Pazza. Un bambino che nacque esattamente... Un bambino o bambina? Dal sesso non ben definito, perché è un'entità astratta. Un'entità, quindi è femminile. E questo è il problema della lingua italiana. Comunque, l'infant terrible in questione è Radio Pazza e compie 3 anni. Io sono DJ Gregs e al mio fianco c'è... Bach. Eccoci qua, tornati cari amici ascoltatori a sollazzarvi con le nostre... Cazzate. Io non lo volevo dire perché... Lo dico io. Bravo, scarico a te. Ci vuole autocoscienza nella vita, andiamo. E anche un po' di ironia. E quindi, compa, noi stiamo qua con le candeline, il prosecco... Ci manca solo Prisma, ma forse ci colleghiamo con lei più avanti per via telefonica. Anche lei è una pietra miliare molto importante per questa radio. Assolutamente, Prisma ha fatto quello che noi lavativi non abbiamo fatto negli ultimi mesi. Sì, è come se le avessimo lasciato i piatti da lavare, no? Noi abbiamo mangiato e lei ha fatto il lavoro sporco, e per questo gliene siamo tanto grati. Sì, grazie sorellina, grazie. Allora, quindi a Prisma e a tutte le altre persone che ci amano, ci ascoltano e ci hanno sempre sorretto e creduto nel nostro progetto e nelle nostre persone, aggiungerei con quanto coraggio... Ma soprattutto chi ve l'ha fatto fare? A tutte queste persone dedichiamo questo fantastico pezzo di apertura che sarà la vera candelina della nostra torta. Per augurarvi tutti quanti buongiorno, buonanotte e felice compleanno di Radio Pazza. Tanti auguri. Questa che ascoltate invece è Nina Simone. Thank you. Sono passati 3 anni da quando Radio Pazza ha pronunciato la sua prima parola. Nel frattempo sono successe tantissime cose, allora rivoluzioni, centrali nucleari che esplodevano, altri avvenimenti Sì, di... praticamente l'Armageddon è in corso. Sì, secondo me i giapponesi devono a questo punto aver paura di Godzilla, perché secondo me fra un po' arriva, insomma, se continuano di questo passo, fra un po' dovranno chiamare i super robot per difendersi. E poi i super robot che saranno sicuramente stati fabbricati in Italia dal figlio della Moratti che si è costruito un laboratorio di Batman sottoterra a Milano. Comunque sta da dove esce fuori. Ecco, appunto, quando uno fa delle riflessioni sugli ultimi 3 anni, o non c'era, oppure se c'era, dormiva praticamente. E questo è il punto, ci siamo accorti effettivamente che tirando le somme su questi ultimi 3 anni non ci abbiamo un cazzo da dire. No, è vero, anche perché se vai a vedere su Google, per esempio, che cosa è successo, esce di tutto e poi sembra di non aver partecipato a questo tutto. È come se fossero volati questi 3 anni, sono stati svolti in un mondo parallelo. No, perché cioè, se non ci credete, io ve lo dimostro. Abbiamo trovato notizie tipo nonnina cinese 102 anni scritta in prima elementare, poi c'era, che so, dopo 8 anni di matrimonio scoprono che i bambini non li porta la cicogna, un gatto russo con 4 orecchie, i ladri entrano in carcere e derubano i carcerati, voglio dire, siamo arrivati veramente alla frutta, però noi di questi 3 anni fondamentalmente non ci ricordiamo un cazzo e quindi... E quindi ci proiettiamo nei prossimi 3. Bravo, noi facciamo questa cosa che è quasi futuristica, noi pensiamo al presente e riflettiamo sul futuro e costruiamo quello che sarà praticamente... Il nostro presente e la medicina per tutto questo è il reggae. C'hai la febbre? Sentiti il reggae che ti passa. Questo è Elvis Presley. Now you've listened to my story. Here's the quote that I made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you lose. Fever till you sizzle. Sono così, ma non sono così. Allora, noi siamo gli unici due DJ al mondo che lavorano con le dita nel naso. Sì, e quindi cioè dita della stessa mano o che occupano entrambe le mani, quindi un dito per mano? No, ovviamente io nel tuo naso e tu nel mio. Certo, un atto di reciprocità organica quasi. Sempre meglio un dito che un microfono. Beh, nel naso, insomma, o c'è le frogge di un cavallo. Ok. E finalmente siamo riusciti a ricreare lo spirito della prima puntata, quello del delirio assoluto. Qui se ci abbandonate non ne facciamo la colpa a nessuno, ve lo giuro. Tanto non è che c'è l'audio, insomma, almeno non per Radio Pazza. E avendo ascoltato dei grandi artisti del passato, oggi ci vogliamo proiettare nel futuro con un gruppo che credo sia futurista. Lo vogliamo definire futurista? Ma perché? Chi passiamo adesso? Adesso passiamo anche i morti possono ballare. Ai. Bello. Curioso, musicale. Io devo dire che l'ignoranza linguistica è una cosa fantastica, perché ti fa sembrare le cose in maniera differente certe volte rispetto a quelle che sono. Cioè, that can dance, no? E sembra una cosa così, no, sofisticata, quasi... Oh yeah. Oh yeah. E poi un titolo come questo, no? Carnival is over. E poi dici... Mazza, bello, suona bene, cos'è? Il carnevale è finito. Io per tutta la vita ho pensato che fosse il carnevale ovunque, ma mi bollo automaticamente come grande ignorante e bifolk. Bifolk, bello bifolk, vedi, diventa trendy. Anche trendy è un'altra parola bella, che è trendy di per sé, quasi trendy DJ al quadrato. Trendy e DJ bifolk. Fantastico, veramente, io mi ribattezzerei quasi quasi. Senti, ascoltiamoci. Quindi questa diventa Radio Paz, no? Esatto. Vabbè. Basta. Meglio non continuare. Finiamola con questo carnevale di parole. Sì. E ascoltiamo i Dead Can Dance con Carnival is Over. Turning gray, they're fragile. Eccoci, allora siamo al microfono. Ah, già state collegati. Sì. Ma non ho fatto con Skype, però pazienza. Ok. Allora, ciao, i miei loschi figuri compiono gli anni. Il terzo anno di Radio Pazza, mi fa piacere essere ancora qui. E ho scelto un pezzo mi è venuto così, mi sono concentrata, neanche troppo, mi è venuto questo pezzo, Sciallo dei Porcupine Tree, e faccio gli auguri ovviamente a tutti noi e ai nostri ascoltatori Radio Passoidi, e approfitto per mandare un saluto a Ruby Tuesday, che lei sa. Lei sa. Ma noi dobbiamo smettere tutti e tre però di utilizzare questo spazio radiofonico per i nostri affari personali. Per farci cazzi. Noi proprio dobbiamo parlare del mondo, della società, delle cose che accadono. Sì, sennò quando lo cambi, giusto. Noi facciamo come cazzo ci pare, no? Esatto. Sì, una domanda. Allora, noi stiamo riflettendo, per esempio, quali sono gli eventi degni di nota degli ultimi 3 anni? Secondo te? Secondo te, ovviamente. Beh, diciamo, intanto ci sono i quattro sì, quindi sto ancora godendo per questa cosa, quindi questo mi questa sembra... Questa è un'ottima risposta. Questa è una grande risposta. Nessuno di noi è riuscito a... un cambiamento di epoca a livello della coscienza civile di questo paese, per cui sto ancora godendo. Senti, a livello mondiale invece? Eh? A livello mondiale. A livello tipo mondiale... l'Italia campione del mondo. Cioè, mo la voglia è troppo complicata, dai, rimaniamo su ma sì. Sul global. No, esatto, è che questa è quella che noi chiamiamo in gergo la famosa patata bollente, cioè quando ti accogliamo quando qualcosa voi, a microfono acceso. Approfitto, siete in due, per cui rambiccatevi il cervello. Sì, ma non ne famo uno, e questo è il problema. Migliore. Ma tu non sai, prima di passarti a patata bollente ce la siamo rimbalzata di testa io e lui almeno, ecco, svariate volte. Si spiegano tante cose, poi sentirai. Senti Prisma, allora voglio dire, come ti senti in questo momento, come il aiutami Drunco. Non capisco che cosa mi vuoi chiedere, dimmi. No, io stavo cercando di formulare una domanda interessante che potesse essere... Ma soprattutto stavo cercando di formulare una domanda intelligente, il che gli riesce, ecco, molto difficile. Una domanda già sarebbe qualcosa. Come fai una domanda, cazzo, una domanda! Una di dai, sinistra! Non so che tempo oggi, per carità. Fai una domanda di sinistra! Senti, no, invece volevamo soprattutto esprimerti la nostra immensa gratitudine per aver lavato i piatti dopo che noi abbiamo pranzato, nel senso metaforico del termine. Sì, e poi vi svegliate tutti sudati, no? Questo bel sogno, sì, i piatti, io che lavo i piatti a voi. Ma no, era metaforico per dire che quando a noi non andava tu facevi la radio. No? Mi sembra più conveniente, vengo scrocco, no? Esatto, però non so se hai colto... Sempre metaforico, nel senso che io scrocco lo spazio, il blog, esatto, per scopiare, quindi alla fine... Con tutta visibilità, anch'io, insomma, tutta visibilità, poi noi abbiamo una quantità di ascoltatori all'infinito. Io mi sono messa lì, mi sono piazzato, ma se sono tevamo... un pochetto con i miei podcast. Ma scusa, ma se te famo pagare? Che merda, no, lo dico, è una merda. Non a me, a chi fruisce di questi sfloghi, ecco, magari qualcuno che vuole. Senti, peccato, pizza, senti, noi DJ sconclusionati. Senti Prisma, peccato che non sei qui. Un grande peccato che non sei qui. In qualche modo, in un'altra forma ci sono, dai, esatto. Inquietante. Sono il fantasma di Prisma. Etere, via, come si dice adesso, via internet, non si dice più via etere, però noi diciamo etere, che ci frega. Via web si dice. Senti, via Prisma. Web, sì, via bit, via... Un'ultima cosa ti chiedo. Dimmi una frase qualsiasi che ti viene in mente. Ah, ce l'ho davanti agli occhi adesso, in Satira Veritas, questa me l'ha ispirata un altro amico di Radio Pazza, Roberto Di Zia, quindi approfitto per salutare anche lui, che da un po' che non si fa sentire su questi microfoni. Ciao bello, è vero. Ro ci manca da morire. Proprio per rimanere in tema fantasmagorico. E quindi... Anche lui ti ha fatto gli auguri oggi. Allora, ripeti, scusa, era... In Satira Veritas, ecco, sì, appunto noi stiamo scrivendo, piace, stiamo compilando un foglio A4 come se fosse una bacheca su cui vengono lasciati dei messaggi, anche un bel lavoro di grafica, insomma, sta nascendo così, un po' a fumetto, un po' a scritture, e ecco, diventerà l'immagine che rappresenterà questo post, questo terzo compleanno di post. Ottimo. Penso che la metà degli ascoltatori ascoltando questo intervento si sono già addormentati. Scusate, non vi sovrapponete. Ci parliamo tutti e tre insieme? Sì, diciamo qualcosa. Ecco, dai, tu dici qualcosa di intelligente. In questo momento stiamo sfumando, allora, entra il pezzo. DJ Graf. No. Aspetta, Prisma, no, il tuo, perdona. Che hai scelto? Pronto? Sì, io ho scelto, l'avevo detto prima, Sciallo dei Porcupine Tree. Ok, va bene, non ho capito, ma sta andando. È andato, qualunque cosa sia. Bacioni, buona serata, tanti auguri, ciao, e buon compleanno. Ciao Prisma, grazie di tutto. Tanti auguri, ciao. We'll be right back. gasoline. Questa Shallow dei Porcupine Tree, un pezzo shallow direi. Sì, nella terminologia contemporanea abbiamo tanti significati che possiamo dare a questa parola. C'è shalla, per esempio, molto utilizzata dai giovani d'oggi, che è tipo oh shalla. Ha mai sentito? Sì, c'è anche la shalla, che poi diventa la shalla. La shalla, tutte le varie evoluzioni. Adesso Prisma ci sarà tipo ci ha fatti i pupazzetti in cui infila gli spilli. Io sono sicuro che appena attaccato il telefono ha detto ma vaffanculo, ma vaffanculo, come Galeazzi ci ha fatto vaffanculo. Ecco, e io incuriosito da questo termine a me nuovo, mi sono andato a vedere su Word Reference e dice a livello di conversazione la traduzione è superficiale, piatto, privo di profondità, vacuo, inconsistente. Quindi in questo caso il termine inglese è identico a quello italiano, cioè sciallo. Scialla. Scialla. Ok, andiamo avanti col prossimo pezzo. E abbiamo scelto per voi, o meglio, aspetta, che c'era? Ho scelto per voi, questo me lo sono proprio andato a capare dal mazzo. Un pezzo che mi mette molta nostalgia, e questo è DJ Graff, e che ci ricorda la vecchia moneta, il vecchio conio. 1500 lire. Devo dire, l'artista più ascoltato su questa radio, se ci pensi. Nessuno mai è stato ripetuto tante volte quanto DJ Graff. Eh sì, sta nella nostra Hall of Fame. Esatto, io sono anche felice di avertelo fatto conoscere. Sciallo. Scialla. Metro, metro, con 1500 lire, con 1500 lire, con 1500 lire, metro, metro.

è un guerriero della luce, perché ha passato queste esperienze e non ha perduto la speranza di essere migliore. Our life. cazzarola. Terminiamo quindi questa nostra ultima puntata, che è Amici Ascoltatori, con una promessa reciproca che ci facciamo noi DJ di ritrovarci qui il prima possibile. Ci diamo quindi appuntamento con un lasso di tempo che abbiamo quantificato non minore di 9 mesi, ma neanche superiore ai 12. Eh sì, un lasso di tempo molto gestibile, insomma, per noi procrastinatori. Senti, ma un ultimo pensiero prima di chiudere i microfoni. Allora, tu mi volevi chiedere qualche cosa. Sì, volevo chiederti, a questo punto, è sempre così banale fare un po' il punto della situazione durante i compleanni, gli eventi, eccetera, anche perché io sono un promotore dei non compleanni, però vabbè, questo è un altro discorso. Ma secondo te, Radio Pazza ha raggiunto gli obiettivi che si era preposta, o meglio, se mai ne ha avuti gli obiettivi, Radio Pazza fa quello che deve fare? Allora, la domanda ha una risposta molteplice. Innanzitutto bisogna capire ognuno di noi perché fa la Radio Pazza e ognuno di voi perché l'ascolta. Credo che ognuno ha una risposta sua personale. Io nel mio piccolo mi sono bruciato il mio hard disk nuovo da 1 tera e quindi ho fatto danni. La nostra musicoterapia non ha fatto altro che combinarci altri casini al cervello, quindi non ci daranno la laurea ad honorem in psicologia e medicina. E gli ascoltatori penso che ci amano la follia, quindi sono sicura che abbiamo raggiunto un grande traguardo. Sì, e soprattutto per me personalmente è stato anche un ottimo modo per smettere di prendermi sul serio. Questa è la promessa che cerco di mantenere tutte le volte che accendo il microfono, e poi dedico veramente con col massimo dell'affetto possibile questo esperimento di web radio no profit e no cost al mio amico Grex e alla mia sorella Prisma. Ragazzi, vi voglio tanto bene. Oddio, sto per piangere. Insomma, terminiamo questa puntata con un bella a tutti, un bella a prescindere, un bella a tutti i costi e un bella senza limiti. Mi piace, quando inventi i tuoi motti sei fantastico. E io chiudo questo circo richiamando un po' il titolo del pezzo che andiamo a sentire. Questi sono i Massive Attack con la loro Paradise Circus, che viene poi dall'ultimo disco pubblicato, in un remix un po' particolare. Spero lo apprezziate e spero che ci lasciate una marea, anzi una miliardata a chili di commenti. Ci sentiamo fra 9 mesi. Porca miseria, è lunga. Ciao. Ciao a tutti.